Abbiamo condiviso alcuni punti importanti. In termini, come dire, generali, riteniamo che, pur ovviamente riconoscendo che siamo in un momento difficile, quindi ovviamente siamo realistici, però pensiamo che davvero sia il momento di lavorare insieme proprio per ritornare a una situazione di normalità, raffreddare in un certo senso gli animi, evitare situazioni di panico, perché pur appunto nella difficoltà ce la si può fare uscire da questa situazione di difficoltà, e un lavoro comune tra banche e imprese può essere un elemento fondamentale che aiuta a uscire da questa situazione. Quindi il tema è proprio lavorare insieme con una sorta di alleanza non solo teorica ma concreta, poi vi dirò come, per supportare proprio il sistema delle imprese italiane e non far mancare in un momento come questo il credito alle imprese. Abbiamo deciso di in particolare lavorare su alcuni punti che riteniamo molto importanti. Il primo punto è che questo tavolo non sarà un tavolo spot, ma è un tavolo strutturale. Abbiamo già deciso il prossimo incontro, che sarà il 31 ottobre, proprio perché vogliamo continuamente monitorare i passi avanti e il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti. Quindi prima cosa è un tavolo strutturale. Seconda cosa, questo stesso tavolo verrà replicato in tutte le province italiane, quindi i nostri rappresentanti della Confindustria a livello territoriale chiameranno dei tavoli simili a questi con tutto il sistema bancario a livello territoriale, proprio per un monitoraggio continuo di quello che succede sul credito delle piccole e medie imprese, sulla segnalazione dei problemi e sulla capacità anche di risolvere i problemi. Quindi prima cosa, monitoraggio, questo tavolo è strutturale e il tavolo diventa un tavolo che viene calato su tutto il territorio proprio per monitorare in tempo reale che cosa succede al credito delle imprese italiane. Un secondo punto che abbiamo definito già dalle prossime ore, comunque dai prossimi giorni, faremo un tavolo comune per risolvere un problema gravissimo che ha il sistema imprenditoriale italiano, cioè noi abbiamo circa dai 60 ai 70 miliardi di crediti nei confronti della pubblica amministrazione che vengono pagati con un ritardo pazzesco, in alcuni casi arriviamo anche a oltre 300 giorni. Questa è una situazione che penalizza moltissimo le imprese, crea problemi alle stesse banche perché gli richiede un assorbimento di capitale molto alto, quindi questo tavolo incomincerà a lavorare subito per cercare di risolvere questo problema. Quindi faremo delle proposte concrete per far sì che questi crediti vengano pagati prima e vengano anche fattorizzati, scontati dal sistema bancario. Questo ovviamente non risolve il problema del credito in generale, ma capite che 60-70 miliardi di euro sono un numero molto importante. Un altro aspetto su cui cominceremo a lavorare da subito è il tema dei confidi. Voi sapete che noi abbiamo queste istituzioni a livello anche territoriale che hanno proprio il compito di garantire i crediti delle imprese nei confronti delle banche. Ad oggi sono strumenti interessanti ma ancora limitati, garantiscono circa uno stock di 10 miliardi di euro di crediti delle imprese, di debiti delle imprese nei confronti delle banche. L'idea è di renderli strumenti più efficienti, più efficaci, patrimonializzare i confidi e fare in modo che lo strumento possa diventare uno strumento maggiormente utilizzato, più utile e più efficace. Dal nostro punto di vista noi lavoreremo anche per avere minore frammentazione e maggiore efficienza nel mondo dei confidi. Un terzo aspetto su cui lavoreremo da subito, e qui ci sarà soprattutto una proposta di Confindustria da far condividere anche all'ABI, noi vogliamo lavorare su un pacchetto di richieste al governo per spingere e aiutare e rendere più conveniente la capitalizzazione delle imprese italiane. Noi ancora soffriamo di una scarsa capitalizzazione, è evidente che in momenti come questi avere più capitale è molto utile, quindi noi a brevissimo faremo una proposta che condivideremo con ABI da porre poi al governo su una serie di strumenti che spingano la capitalizzazione, la detassazione degli utili investiti, una tassazione agevolata per quella parte di diciamo per il capitale che viene immesso all'interno delle imprese, un tema sulle rivalutazioni, sugli ammortamenti, insomma faremo un pacchetto e probabilmente questo verrà anche presentato a Bologna durante il forum della piccola industria per proprio portare la capitalizzazione delle imprese. Lavoreremo poi anche per cercare di far sì che ci siano anche strumenti che il governo mette a disposizione delle imprese per supportare gli investimenti soprattutto in innovazione, ma gli investimenti a 360 gradi, e lavoreremo anche insieme per spingere il governo italiano, ma anche il governo europeo, a rilanciare una forte politica di investimenti pubblici in infrastrutture. Nel nostro paese abbiamo un problema di gap grandissimo, ma in generale è evidente che un investimento in infrastrutture può avere un effetto anticongiunturale, può immettere crescita nel sistema, e quindi noi lo chiederemo. Io poi sono in partenza per Parigi, dove questo tema, anche con le Confindustrie europee, le Confindustrie del G8, sarà un tema all'attenzione massima. Infine, e poi lascio la parola al Presidente Faisola, lavoreremo anche per un tavolo, diciamo, meno di emergenza, ma certamente altrettanto importante, comune, dove ci occuperemo comunque di risparmio gestito, di investitori istituzionali, di strumenti comunque finanziari a supporto dell'impresa, perché è evidente che poi, una volta usciti dall'emergenza, questo paese ha comunque bisogno di investitori a medio termine, ha bisogno ovviamente di mettere a disposizione delle imprese degli strumenti finanziari che possono aiutare l'operatività delle imprese. Ultimo aspetto, ci siamo anche detti di lavorare insieme per fare in modo, come questo è un compito che spetta soprattutto ovviamente all'ABI, ma noi ci mettiamo a disposizione se questo sarà utile, per spingere anche le autorità monetarie sia europee che italiane a far sì che nel più breve tempo possibile si ripristini il mercato interbancario, non solo a brevissimo ma anche a 3, 6, 12 mesi, ci sia la possibilità reale di ripristinare la normalità del mercato, perché senza quella è evidente che ci possono essere problemi di liquidità che poi si riportano e ci sono delle conseguenze anche per il sistema imprenditoriale. Quindi una volontà di azione comune, forte, concreta, che parte con questo incontro di oggi, ma non è spot, continua, monitoraggio a livello territoriale di quello che succede realmente alla situazione del credito nei confronti delle imprese, perché è evidente che su questo punto noi abbiamo una grande sensibilità e una grande richiesta da parte dei nostri imprenditori che non ci siano situazioni di mancanza di credito, e come ho detto prima una serie di tavoli che partono subito per proprio migliorare la situazione della liquidità da parte per il mondo delle imprese.